Benvenuti a un nuovo Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un argomento che credo che appassiona: le risorse digitali per la scrittura. In pratica, vuoi capire non solo come usarle, ma anche come stanno cambiando il modo in cui pensiamo e impariamo a scrivere, soprattutto in Italia. Hai proprio centrato il punto. Non si tratta solo di imparare a usare un nuovo software, ma di esplorare un intero mondo di possibilità, cognitive e culturali che si aprono grazie a questi strumenti. E per orientarci in questo mondo avremo come bussola un articolo davvero stimolante. Risorse digitali per la scrittura di Marco Guastavigna, pubblicato sulla Ricerca. So che sei un esperto di tecnologia, ma scommetto che questo articolo ti svelerà alcune sfaccettature sorprendenti. Sì, l'articolo è molto interessante perché non si limita a parlare di penna contro tastiera, anzi smitizza questa contrapposizione sterile e ci mostra come l'integrazione del digitale nelle scuole italiane sia ancora un terreno da esplorare con tutte le sue potenzialità e le sue sfide. Ecco, questo è un aspetto che mi ha colpito subito. Spesso ci perdiamo in dibattiti ideologici invece di analizzare con pragmatismo cosa sta succedendo realmente nelle scuole. Ma l'articolo non si limita a fare una panoramica, vero? Assolutamente no. E Guastavigna analizza come i word processor, per esempio, riflettano le varie fasi del processo di scrittura, dalla creazione di una scaletta all'organizzazione dei paragrafi, dalla stesura del testo alla revisione finale. Aspetta, aspetta. Qui c'è un punto cruciale. L'articolo sottolinea che i software moderni permettono un movimento ricorsivo tra queste fasi. Non siamo più vincolati a un processo lineare. Che impatto ha questa fluidità sul modo in cui scriviamo? Io, per esempio, mi ricordo che con carta e penna ero molto più rigido. Facevo fatica a tornare indietro, a rielaborare le idee. È vero, la tecnologia ci libera dai vincoli della scrittura tradizionale e questo si traduce in una maggiore facilità di revisione e di sperimentazione, aspetti fondamentali per migliorare la qualità della scrittura e di conseguenza l'apprendimento. A proposito di organizzazione, l'articolo parla di strumenti come titoli, elenchi numerati e mappe concettuali. Onestamente, all'inizio li consideravo solo fringe benefit, ma leggendo l'articolo mi sono reso conto di quanto possono essere utili per strutturare il testo in modo logico e visivamente chiaro. Certo, pensa alla possibilità di generare automaticamente un indice, un aiuto prezioso per visualizzare la gerarchia delle informazioni e la struttura del testo, uno strumento che se usato correttamente può migliorare la comprensione del testo stesso. Parlando di rivoluzioni nella scrittura, come non citare il mitico taglia e incolla? Una funzione che all'apparenza può sembrare banale, ma che in realtà ha cambiato radicalmente il nostro modo di scrivere. Hai ragione, il taglia e incolla ci ha liberati dalla paura di sbagliare, dalla rigidità del foglio bianco. E questo si collega al concetto di plasticità del testo digitale, un concetto che Guastavigna esplora in profondità. Il testo digitale è malleabile, si può modellare, modificare, riorganizzare senza sforzo. Questa plasticità incoraggia la sperimentazione, la ricerca di soluzioni creative e rende la revisione meno scoraggiante. E a proposito di revisione, l'articolo ci ricorda come gli strumenti digitali la trasformino da un compito noioso a una parte integrante del processo di scrittura. Pensa a funzioni come rileva modifiche, commenti, confronto tra versioni, strumenti utilissimi sia per lo studente che per l'insegnante. Esatto, l'insegnante può intervenire direttamente sul testo fornendo un feedback mirato e costruttivo. Lo udente, a sua volta, può vedere l'evoluzione del suo lavoro, capire i suoi errori e imparare a correggerli. Guastavigna parla di un ambiente di incubazione e perfezionamento, dove ogni versione del testo contribuisce alla crescita dello studente. Un'immagine molto suggestiva che mette in luce il valore del processo, non solo del prodotto finale, ma non dimentichiamo l'importanza di scrivere per un pubblico specifico. L'articolo cita strumenti come il vocabolario di base e ACI il testo, software che aiutano a semplificare il linguaggio e a renderlo accessibile a diverse tipologie di lettori. Tu che ne pensi? Trovo che siano strumenti molto utili, soprattutto in ambito educativo. Adattare il linguaggio a pubblico è fondamentale per garantire la comprensione del testo e per promuovere l'inclusione. Pensa agli studenti con difficoltà di apprendimento. Questi software possono fare davvero la differenza. E poi c'è la dematerializzazione del testo, un concetto che mi affascina e mi inquieta allo stesso tempo, la facilità con cui possiamo salvare, copiare, condividere il testo. Il testo diventa fluido, inafferrabile, quasi immateriale, e questo apre scenari completamente nuovi. È vero, la dematerializzazione del testo solleva interrogativi importanti sulla proprietà intellettuale, sull'autenticità. Sulla conservazione dei documenti. Ma offre anche opportunità straordinarie. Pensa alla possibilità di trasformare un testo scritto in audio. Un'opportunità incredibile per l'inclusione, che apre nuove strade all'apprendimento. Parlando di nuove strade, non possiamo ignorare l'impatto del digitale sulla pubblicazione. Blog, ebook, piattaforme come SlideShare e Scribd. Gli studenti non scrivono più solo per l'insegnante, ma per un pubblico potenzialmente vastissimo. Che impatto ha questa consapevolezza sulla motivazione? e sull'approccio alla scrittura? È una domanda complessa. Da un lato, la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio può essere motivante e stimolante. Dall'altro, la paura del giudizio pubblico, la pressione di dover scrivere per il web, possono generare ansie e blocchi creativi. È un terreno delicato che va affrontato con attenzione, soprattutto a scuola. E che dire dei collegamenti ipertestuali, una vera e propria rivoluzione nella costruzione del testo? I link non sono semplici rimandi, ma creano un'interazione dinamica tra informazioni e prospettive diverse. Pensa alla possibilità di accedere direttamente a Wikipedia da una parola chiave nel testo. Un arricchimento incredibile, ma anche una potenziale fonte di distrazione e di superficialità. Dobbiamo imparare a usare i link in modo consapevole, senza perdere di vista il filo del discorso. È un cambio di paradigma che ci obbliga a ripensare il modo in cui leggiamo e scriviamo. E non dimentichiamo gli ambienti di scrittura specializzati come Balabolka per la sintesi vocale o AraWord per la comunicazione aumentativa, strumenti che rendono la scrittura accessibile a tutti, indipendentemente dalle loro abilità. L'articolo ci offre un panorama davvero completo delle risorse digitali a disposizione, ma la domanda cruciale rimane: come possiamo sfruttare al meglio queste potenzialità per migliorare l'apprendimento e la comunicazione? È una domanda a cui cercheremo di dare una risposta nella prossima parte del nostro Deep Dive. Non perdetevela. Bentornati al nostro Deep Dive. Nella prima parte abbiamo esplorato le incredibili potenzialità delle risorse digitali per la scrittura, ma ora la domanda è: come si traduce tutto questo nella pratica didattica? Quali sfide e opportunità si presentano agli insegnanti? Domande cruciali. Ricordi la contrapposizione tra penne e tastiere di cui parlava l'articolo? Ecco, Guastavigna ci invita ad andare oltre questa dicotomia e a concentrarci su come integrare al meglio gli strumenti digitali nell'insegnamento della scrittura. Non si tratta di sostituire la penna, ma di creare un ambiente di apprendimento più ricco. Esattamente. Pensiamo alla funzione rileva modifiche, uno strumento prezioso per la valutazione formativa. L'insegnante può intervenire direttamente sul testo dello studente, fornendo un feedback puntuale e mirato, non solo correggendo gli errori, ma guidando il processo di revisione. E lo studente, a sua volta, può vedere l'evoluzione del suo lavoro, capire i suoi punti deboli e come superarli. Un processo molto più trasparente e partecipativo rispetto alla classica correzione in rosso sulla carta. Hai ragione. Questo ci porta a un altro aspetto fondamentale, la collaborazione. L'articolo parla di spazi cloud condivisi, piattaforme dove gli studenti possono lavorare insieme su un unico documento, scambiarsi idee, feedback, suggerimenti, un vero e proprio laboratorio di scrittura digitale. Immagino la scena, un gruppo di studenti che lavora insieme a un testo, si confronta, si aiuta a vicenda. L'insegnante in questo contesto non è più un semplice dispensatore di sapere, ma un facilitatore, un mentore che guida gli studenti in questo processo di apprendimento collaborativo. Un modello che si ispira alla pedagogia attiva, al learning by doing. Esatto. L'insegnante accompagna gli studenti in questo percorso di scoperta. Li aiuta a sviluppare le proprie competenze, a diventare autonomi e responsabili del proprio apprendimento. Ma non dimentichiamo l'aspetto più tecnico della scrittura digitale. L'articolo menzionava strumenti per la semplificazione del testo, per la scrittura controllata. Strumenti utilissimi, soprattutto per gli studenti con difficoltà di apprendimento. Pensa alla possibilità di analizzare un testo, di individuare parole complesse o frasi troppo lunghe, di suggerire alternative più semplici e comprensibili. E poi non dimentichiamo la potenza dei link ipertestuali, un'opportunità incredibile per approfondire argomenti specifici, accedere a fonti diverse, creare percorsi di apprendimento personalizzati. Immagina un testo di storia che si arricchisce di mappe interattive, di video documentari, di collegamenti a siti archeologici virtuali, un modo per rendere l'apprendimento più coinvolgente e stimolante. E non solo per la storia. Pensa alla possibilità di integrare esercizi interattivi in un testo di matematica, o di collegare un testo di letteratura a un database di opere d'arte. Le possibilità sono infinite. Ma tra tutte queste opportunità, non dobbiamo dimenticare le sfide che l'integrazione del digitale nella didattica comporta. La formazione degli insegnanti, la selezione di strumenti più adatti, la riflessione critica sulle metodologie. Certo, non basta inserire un computer in classe per trasformare la didattica. È necessario ripensare le attività, le modalità di interazione, il ruolo dell'insegnante e degli studenti. Dobbiamo chiederci: come possiamo usare la tecnologia per migliorare l'apprendimento? Quali sono i modelli di successo a cui possiamo ispirarci? Domande complesse, a cui cercheremo di dare una risposta nella terza e ultima parte del nostro Deep Dive, non mancate, bentornati al nostro Deep Dive. Nelle due parti precedenti abbiamo discusso delle potenzialità, delle sfide e delle risorse digitali per la scrittura, ma ora entriamo nel concreto. Come possiamo integrarle efficacemente nella didattica? Da dove si parte? Il primo passo è sicuramente la formazione degli insegnanti. Non si può pensare di usare efficacemente queste risorse senza una solida conoscenza delle loro caratteristiche e potenzialità. Hai ragione. Spesso si pensa che basti mettere un computer in classe per rivoluzionare la didattica. Ma non è così semplice. Gli insegnanti devono essere in grado di selezionare gli strumenti più adatti alle esigenze dei loro studenti, di progettare attività didattiche innovative, di valutare i risultati in modo critico. Esatto. Per fortuna esistono diverse iniziative di formazione dedicate proprio a questo. Corsi online, workshop, webinar che offrono agli insegnanti gli strumenti teorici e pratici per affrontare questa sfida. Ma la formazione non basta. È fondamentale anche un'attenta selezione degli strumenti. Vero. L'articolo di Guastavigna ci ha presentato un'ampia gamma di software e piattaforme, ma come orientarsi in questa giungla digitale? Come scegliere gli strumenti giusti? Io a volte mi sento sopraffatto dalla quantità di opzioni disponibili. Capisco la tua sensazione, un buon punto di partenza è sicuramente quello di definire gli obiettivi didattici, cosa vogliamo che i nostri studenti imparino, quali competenze vogliamo sviluppare. Una volta chiari gli obiettivi, possiamo iniziare a cercare gli strumenti che meglio si adattano alle nostre esigenze. Esistono strumenti specifici per ogni fase del processo di scrittura, dalla pianificazione alla stesura, dalla revisione alla pubblicazione. Senza dimenticare gli strumenti per la semplificazione del testo, per l'inclusione, per la creazione di contenuti multimediali. La scelta è davvero vasta, ma supponiamo di aver scelto gli strumenti giusti. Come si fa a integrarli in modo efficace nella didattica? L'articolo non ci offre delle ricette pronte all'uso, ma ci invita a una riflessione critica sulle metodologie. Esattamente, dobbiamo ripensare le attività, le modalità di interazione, il ruolo dell'insegnante e degli studenti. L'articolo, ad esempio, sottolinea l'importanza di creare un ambiente di apprendimento collaborativo, dove gli studenti possono interagire tra loro, scambiarsi feedback e aiutarsi a vicenda. Quindi l'insegnante non è più un semplice trasmettitore di conoscenza, ma diventa una sorta di regista che orchestra l'apprendimento, che guida gli studenti in questo processo di scoperta. Un modello che si ispira alla pedagogia attiva, al learning by doing, all'apprendimento collaborativo. Un modello che per fortuna sta prendendo piede in diverse scuole italiane, scuole dove la tecnologia non è un semplice strumento, ma un'opportunità per creare nuovi spazi di apprendimento per personalizzare i percorsi, per rendere la scuola un luogo più stimolante e inclusivo. Insomma, le risorse digitali offrono un potenziale enorme per innovare la didattica della scrittura. Sta a noi cogliere questa sfida con entusiasmo, con spirito critico, con la voglia di sperimentare, di imparare cose nuove. E chissà, forse un giorno i nostri studenti ci ringrazieranno per averli introdotti in questo mondo digitale, un mondo ricco di opportunità e di sfide, un mondo dove la scrittura non ha più confini. Un pensiero davvero stimolante. E con questa nota di ottimismo concludiamo il nostro deep dive sulle risorse digitali per la scrittura. Grazie per averci seguito e a presto per un nuovo tuffo nel mondo del sapere.